come va a finire, solo al piano di sopra lo sanno. Io so solo una cosa, che non so se l'avete visto anche voi, perché non era una trasmissione tanto bella, che quando hanno intervistato i medici hanno detto chiaramente che molti pazienti non li potevano, quando c'era il culmine di questa infezione, non li hanno neanche ricoverati, cioè praticamente sono morti a casa. Alla domanda, ma se ci fosse stato posto li potevate salvare? Sì, probabilmente li avremmo salvati, molti si sarebbero salvati. Stiamo parlando anche di gente di 45 anni, non stiamo parlando del vecchietto che aveva tante patologie. Al medico le hanno risposto, siccome c'era marito e moglie preso, guardi, anzi no, marito, c'era il padre e il figlio presi, che stavano entrambi male, e le hanno detto dal 118 noi possiamo prendere solo uno, perché non c'è posto. E il padre ha detto, prendete mio figlio che lui è giovane. Il padre è morto, cioè non c'è da fare tanti giri su queste cose, bisogna dire le cose come sono, crude, perché questa infezione polmonare bilaterale è micidiale, è una cosa molto molto molto brutta, chi l'ha vista, insomma, non sono neanche cose piacevoli da vedere queste persone. Non ci credo, non so cosa ti dica Giulio, purtroppo è così. Ma se addirittura oggi stavo leggendo che è ritornato il coronavirus a Caltanissetta, ti puoi immaginare adesso i vecchi che ci sono lì, certamente non sono stati loro a provocare di nuovo il contagio, evidentemente da fuori magari i parenti sono andati lì a visitarlo e hanno di nuovo contagiato, chissà come va a finire, non lo so, la gente non si rende conto della strage umana che c'è stata. Eppure anche in ospedale, io avanti ieri ero in ospedale per fare la visita che ho fatto, e devo dire che anche lì non è che ci sono questi controlli, anzi assolutamente no, entravano così senza nessun problema. E dire che c'è il bollino davanti all'ingresso della porta, che lì appena che ti metti lì ti dovrebbero prendere la temperatura, lì c'è il banco con tre persone, eppure nessuno diceva niente, la gente entrava e usciva così liberamente senza nessun problema. Ma quando mai deve essere così? In ospedale addirittura il controllo ci deve essere, tu non puoi far entrare chiunque in questa maniera. Io sono entrato chiaramente nella zona dove dovevo andare io, non era molto affollata, anzi devo dire che era non deserta ma quasi del tutto, per cui però c'erano altre parti dove si entrava, si usciva tranquillamente, così senza nessun controllo, e così non va bene. Avanti qua. Sì, un secondo solo, perdonatemi che sto rispondendo a un messaggio telefonico scritto, se no mi impappino. Vai Gianfra, rispondi tu. Sì, purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così, sembra che anche a Nuoro ci siano dei casi, anche all'ospedale di Nuoro, che io ci sono stato, ci sono sia controlli con le telecamere termiche, sia può entrare solo se sei prenotato, insomma le misure ci sono, ogni tanto passa una specie di idroattore per disinfettare, quindi non so cosa dirti. Una follia. Sì, infatti c'è poco da stare allegri, perché non è possibile, io ripeto, c'ero lunedì, praticamente io lunedì, oggi è giovedì, vabbè, lunedì io sono andato tranquillamente, sono entrato, mentre invece altre volte che sono andato prima, un po' di tempo prima, c'erano le infermiere lì davanti alla porta con quella specie di cosa, come si chiama, di macchinetta che ti prendeva la temperatura. Oggi, cioè, lunedì invece niente del tutto. La gente entrava, usciva, sembrava entrando al bar e usciva tranquillamente, così, senza nessun controllo. Non va bene così, non va bene. Adesso ci ritornerò lunedì di nuovo, io martedì, per prendere appunto l'esito della visita che ho fatto. Tutto lì. Mi auguro bene, comunque. Cosa vuoi che ti dica già fra? Siamo messi male, veramente. Vai già fra. Sì, registrato. Datemi un paio di minuti, che mi sto allontanando anch'io. Uno o due minuti. Ha fatto il break. Sì, buonasera a tutti. Vi stavo ascoltando. Non ci sono stati controlli, manco degli sbarchi delle navi, capito? Non ci sono stati manco controlli lì, perché ho amici che lavorano sulla nave e mi hanno detto questo. Mi hanno detto che controlli non ne hanno fatto. Ok, ciao Gianni, infatti ti volevo telefonare, ma poi mi sono girato e ho visto che il telefonino qua non ce l'ho a portata di mano, ce l'ho giù, e dunque se non ti volevo telefonare proprio per entrare in frequenza. Sì, in effetti è così già, i controlli mancano i controlli, la gente l'ha presa troppo alla leggera, questa è una situazione seria, ma veramente seria, invece la gente non la vuole capire nella maniera più assoluta, è inutile che loro facciano appelle, ma se tu fai appelle poi non rispetti le regole, non c'è niente da fare, e la gente è proprio disordinatissima, per cui, anzi io addirittura la considero incosciente, tutte quelle persone che non sanno le regole, per me sono delle persone incoscienti, irrispettose, non si rispettano loro, non rispettano nemmeno gli altri, e io la penso così Gianni. Io quando scendo o esco ho sempre la mascherina addosso, sembro l'unico scemo che abbia la mascherina, perché tutti gli altri che incontro non ce n'è uno che abbia la mascherina, sono tutti senza. Tra l'altro mi hanno fermato le guardie doppie l'altro giorno per controllarmi il cane e le ho detto un'osservazione da farvi, mi dica, come mai non avete le mascherine? Sai cosa mi ha risposto? Che non c'era assembramento, quindi lui poteva stare sempre. Sono entrato. Ok qua. Sì, ma io invece so che c'era stato un comunicato da parte del sindaco che a Sassari, perlomeno Sassari, era obbligata ad apportare le mascherine e invece nessuno, quanto sembra, le porta. Sì, già ci sono qualcuno della porta, ma io non riesco a capire per quale motivo non si debbano far rispettare queste leggi. Ha detto, ma questo qui è un protocollo che aveva stabilito il sindaco di Sassari. Sassari doveva essere dal lunedì, mi sembra, dal lunedì scorso, o addirittura da sabato o domenica, se non ricordo bene il giorno, doveva essere obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, non solamente nei locali pubblici, ma anche all'aperto. Ecco, tutto lì non capisco per quale motivo non si debbano obbligare le persone a mantenere le regole. Avanti Claudio. Sì, mi pare che c'è qualcuno anche che vuole entrare, adesso lo faccio entrare. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Sì, ma in realtà te l'ho già spiegato Giulio. Io ho fatto 2 mesi, quasi 3 in campagna, e praticamente tutte le sante mattine andavo a Colombano perché è il bar più vicino per le sigarette, il giornale eccetera e un caffè. Io entravo con la mascherina, fuori tutti senza mascherina, dentro tutti senza mascherina, non c'è niente da fare, e sto continuando a vederlo adesso che ho cambiato, perché vado al Prince in via Tempio, la stessa cosa, uguale, preciso, identico. C'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha, dobbiamo renderci conto che in questo contesto bisogna usarla tutti e continuare a fare il sacrificio che abbiamo fatto quando la prima volta è successo il problema del Covid. Tutto qua, avanti, mi sembra Marco che voleva rientrare, vai Marco. Eia, sì, una nota, avevo sentito sì, l'obbligo di mascherine anche in luoghi aperti, in prossimità o in tutti i luoghi dove c'era possibilità di assembramento, cioè magari non per strada se sei isolato, però fermate del tram, coda alle poste fuori, anche i bar, dentro e fuori, capito? Tutti i luoghi di assembramento anche all'esterno. Invece tu vedi i tavolini all'aperto, sono tutti uno posato, uno nato all'altro, uno in braccio all'altro, baci, abbracci. Invece io quando vado al bar che mi pido il caffè, io mi tengo la mascherina, quando nel momento che devo bere il caffè l'abbasso, bevo il caffè e me la rimetto. Se dobbiamo parlare poi con gente parliamo, però cioè io non ci voglio stare un altro mese chiuso a casa, se no divento scemo più di quanto non lo sia già. Vai Giulio. Ok Marco, sì, ben rientrato intanto. Sì, ma è così, in effetti la gente non si rende conto, perché è un danno non solamente per la salute ma anche per l'economia, perché questa storia più a lungo dura più abbiamo mandiamo in rovina l'economia. Non è possibile che si possa continuare in questa maniera. La gente proprio, guarda, non lo so, proprio sprovveduta assolutamente, anzi io addirittura la considero maleducata. Io per me sono maleducata con le persone lì, capita, non lo so, boh, incredibile. Vabbè, riprendi già. Comunque l'ordinato del sindaco era dalle 6 di sera alle 6 di mattina, anche in luoghi aperti. Non specificava di assembramento di roba del genere, come mettono le guardie zuffere, che mettono la fesseria. Io glielo ho detto, ascoltate bene il televisore, perché hanno detto dalle 6 di sera, sì, dalle 6 di mattina. Non hanno specificato se era luoghi di assembramento o che cosa. Che bisognava indossarlo ogni qualvolta si usciva, appunto. Così hanno detto. Poi se hanno cambiato le cose non lo so, comunque nemmeno loro le hanno rispettate le regole. E l'assembramento poi c'era, perché c'erano due guardie zuppine senza maschera, c'ero io e c'era una signora, quindi c'era già un po' di gente, no? Se vogliamo proprio attaccarci a... No Gianni, il comunicato che ho letto io ed era pubblicato sul giornale, è stato pubblicato, c'era l'obbligo di indossare da quel preciso giorno c'era l'obbligo di indossare anche per strada la mascherina, non parlava né di assembramenti e niente. Questo era il protocollo che aveva emanato il sindaco di Sassari. Poi se successivamente è stato cambiato, questo non lo so, però in un primo momento il sindaco di Sassari obbligava a fare questo, tutto lì. Avanti Claudio. Gianfranco, comunque Gianni, l'ordinanza del sindaco era sino al 7, ma adesso è stata rettificata, la mascherina va tenuta dalla mattina tutto il giorno, non c'è più sino alle 6 del pomeriggio, sino alle 18, capite? Quindi va tenuta tutto il giorno la mascherina, sino al 7 di settembre, e poi sicuramente ci saranno le restrizioni, tu vedrai. Avanti Gianfranco. Sì, ma io anche stamane ho visto ad esempio la pattuglia dei carabinieri, e la mascherina c'erano tutte e due in macchina, ed erano in macchina, e questo per un semplice ragionamento, perché io non lo so cosa fa il mio collega quando è fuori servizio, e lui non sa quello che faccio io, quindi se questa gente c'è anche famiglia o magari persone anziane eccetera, è chiaro che anche lavorare in quel modo è un rischio, e così per tutti, quindi anche per loro, quando escono fuori, che siano guardie zoofile o qualunque altra cosa, essendo comunque in una macchina, essendo in 3-4, sarebbe opportuno che adottassero anche loro delle precauzioni, sempre nell'interesse comune. Poi però già lo sappiamo tutti com'è, no, la questione, si canta vittoria, si canta vittoria, però la collina non è stata neanche conquistata ancora. Speriamo che succede. Sì, lo so Claudio che poi è stato così. Comunque se fosse stata cambiata la situazione, Giulio l'avrebbero fatto sapere, quindi non penso che abbiano cambiato le regole. Sono loro che per scusarsi hanno detto no, non c'è assembramento, quindi noi dobbiamo mettere. Ho detto no, per me non è così, perché io ho sentito diversamente. Comunque, va bene, il crocifisso era il cane, sì, ho preso, l'ho incontrato il crocifisso e sono andato. Poi ha fermata una signora che ha buttato la bombetta ed era di Sant'Orsola addirittura, era stata buttata vicino a casa. Sì, non parliamo di quello poi, perché ho letto anche un articolo sul giornale qualche giorno fa, addirittura gente che viene dai paesi che percorre anche 50 km e forse anche di più per buttare poi la bombetta qua nei contenitori di Sassari o addirittura buttarla in qualche angolo così un po' nascosto. Tanto è vero, c'era anche la fotografia sul giornale di questa macchina, di questa persona che stava buttando dell'immondizia in un angolo di Sassari ed è stato rintracciato, naturalmente gli arriverà la multa se non gli è già arrivata, perché ci sono le telecamere che ti inquadrano per benino e risalgono a te e a chiunque. Ecco com'è la situazione. Avanti Marco. Ciao Marco. Sta facendo colazione. Cioè, sei andato a prendersi il caffè e dopo si deve prendere anche una massa caffè. Avanti Claudio. No, un attimino Claudio. Che io sappia però, pagando tutta la cittadinanza di Sassari al comune, la spazzatura la possono buttare anche nei cassonetti, perché se uno è in transito, l'importante è che sia di Sassari, ecco, così mi è sembrato di capire, poi non so se stia sbagliando, non è a livello di quartieri. No, questa qua gli hanno detto come mai c'era di Sant'Orso, la stava buttando la mondetta a Sassari, e questa gli ha detto perché io sono a servizio da una signora e la mondetta è della signora, non è mia. Sì, ce l'aveva in tasca, se l'ha portata a casa sua, se l'ha portata, ma dai, no, quella addirittura l'articolo sul giornale era questa persona con la macchina, era venuta da Furia, aveva percorso, naturalmente dopo che l'hanno scovato chi era, perché chiaramente dalla targa della macchina lo trovano la persona, no? Hanno appurato che c'è gente addirittura che viene anche a distanza di 50 km da Sassari, per cui io che abito nei punti non dovrei prendere la mondetta e portarla ad esempio ai contenitori che so io della Teroccio o del Monte Rosello, premesso che qua abbiamo noi il porta a porta, abbiamo dunque tutti i santissimi giorni, abbiamo un calendario, dobbiamo metterlo davanti all'ingresso della casa, durante la notte o in mattinata molto presto passano e ritirano la mondetta. Io non capisco per quale motivo non ci debba essere la differenziata anche a Sassari, visto e considerato che da moltissime parti c'è, come Sassari, Ottava, San Giovanni e via discorrendo, anche Pratamona, insomma dappertutto, Porto Torres, e a Sassari no. Per quale motivo Sassari centro non ci deve essere la raccolta differenziata come la fanno nell'agro? Questo non lo capisco. Cosa siamo? Differenti. Però da Samondetta io arrivi, già mi è arrivata a 450 euro avanti ieri, la terza Mondetta. Boh, non è possibile. Avanti Claudio. Io l'ho già pagata, mi ha tolto il debito. Sì, anche io. Era rateizzata, l'ho pagata tutta assieme. Va bene. Comunque anche qua succede questo, perché in questo rione ci sono ancora i cassoni, chiaramente con la differenziata, l'umido eccetera. Però molta gente che non abita in questo quartiere viene, io la mattina lo vedo quando esco, vengono e buttano la mondezza in questi cassoni, perché io orientativamente il rione lo conosco, quindi so chi abita qui e chi non abita qui. E purtroppo stavamo a controllare Giulio, non è che dobbiamo essere noi, poi ci sono le telecamere a spia, che chiaramente quando sbagli paghi, è giusto così, va bene, comunque, va bene, avanti a chi tocca. Io ho visto quelli della forestale che praticamente gli hanno aperto la busta addirittura per controllare cosa c'era dentro. No, noi la differenziata ce l'abbiamo, Giulio, cosa stai dicendo? Ci abbiamo vetro, ci abbiamo plastica, ci abbiamo umido, secco, ce l'abbiamo tutta differenziata. Poi c'è gente che magari non rispetta le cose, quello sì. No, un attimino, dunque chiediamo una cosa. Allora, se il cittadino è di Sassari, probabilmente la cosa non è localizzata qua a Chieri, perlomeno non mi risulta. La cosa è localizzata sia a orario in cui la butti la spazzatura, quindi bisogna rispettare gli orari, e sia se a seconda di cosa è, se è plastica, seccata, eccetera. Oggi ad esempio noi che facciamo il porta a porta, che è quello che vengono tutti i giorni adatti, oggi c'è la plastica. Però siccome paghiamo le tasse allo stesso comune, abbiamo diritto anche a usufruire dei cassonetti che sono in strada. L'importante è rispettare gli orari, rispettare la differenziata. Penso che sia così, ripeto, non sono certo, riprendi Claudio. Sì, beh, penso che sia così, Gianfra, non lo so, io ti ripeto quello che è vero, lo sto dicendo. Anche qua, in questo quartiere, succede che qualcuno passa magari del rione, non so, diverso, non dico che sia di Sant'Orso, o di Ripunti, che sia, insomma, che non abita in questo rione, ecco, la butta in questi cassonetti, però è una cosa normale, penso che sia una cosa normale, che non ci sia niente di strano fare una cosa del genere, poi ripeto, non lo so, io tutte le sante mattine, oppure la sera, io incrocio sempre quelli che vengono a scaricare proprio i cassonetti tutte le mattine, capito? Quando esco presto, quando lo devo uscire presto, allora lo butto la sera. Adesso che ne so, sono già le 7, sono già in ritardo, adesso quando porto il cane butto la mondezza, tutto qua, le bottiglie di plastica, il vetro, l'umido, e tutto il resto. Vabbè, Giulio, ognuno fa le leggi a conto suo, ognuno, come abbiamo già detto, sembra che tutto gli è dovuto e quindi non gliene frega niente, però non funziona così, perché se tutti facciamo questo o non facciamo funzionare le normative di legge, le ordinanze del comune, succede un patatrac, perché guarda, qua proprio ieri ho assistito, ero nel poggiolo, mi stavo fumando una sigaretta, si è fermato un furgoncino, ha scaricato 3 bidoni di tinta pieni di garraggio, li ha messi vicino al cassonetto e se n'è andato. Mi ha pizzicato nel momento che non avevo il telefonino in mano, se avevo il telefonino facevo la foto alla targa e l'avrei inculato, ti giuro, ma non perché sono un... perché così, capito? Come tu vieni e butti la mondezza che non si può buttare, la lasci lì e te ne vai, non va bene. A parte che quella mondezza lì non si butta nei cassonetti, ci sono i posti dove raccolgono apposta quel tipo di mondezza. Ma comunque la raccolta porta a porta io la vedo un po' una cosa antipatica, perché se uno pulisce il pesce, quindi specialmente d'estate, cosa deve aspettare che passino 2 giorni che vengano a ritirare la roba? È una cosa un po' assurda, là. Questo è un altro problema, lo so Gianni, questo è un altro problema, però il discorso è questo, io posso capire, abito qua e la porto per dire a Monte Rosello, la butto dentro i bidoni di Monte Rosello, perché tu ce l'avrai lo stesso la differenziata, ma tu guarda tutto il Monte Rosello e parte della Teloce, ci sono sempre i cassoni e da buttare la mondezza, per cui lì la differenziata non c'è, se non in uno specifico o in una specifica zona. Però c'è da dire questo, io che sono di qua posso anche capire, dico io per dire a qualsiasi persona, che la trasporto da qua è la porta Sassari, anche se non è giusto per conto mio, ma non è giusto per rispetto dei lavoratori, perché non è giusto che tu puoi caricare un tipo di lavoratori che magari appartengono in una zona, non li puoi caricare della mondezza di altri lavoratori che appartengono in un'altra zona, non va bene. Però tornando a questo, parliamo un attimino delle persone che vengono da fuori, dai paesi. Se noi buttiamo la mondezza nei cassonetti che vengono da fuori, che cosa succede? Che si accumula una certa quantità di mondezza. La mondezza viene pagata da noi in base al quintalaggio o tonnellaggio, come lo vogliamo chiamare, perché più mondezza c'è e più ci fanno pagare di tassa. Siccome siccome ogni comune stabilisce il suo prezzo per la Tari, e allora non è giusto, se noi produciamo un certo numero di quintali di Mondezza e però quelli si vengono aggiunti anche da quelli dei paesi, è chiaro che il peso aumenta e noi paghiamo di più e dobbiamo pagare noi per quei disgraziati che vengono da fuori, dai paesi, ad inquinare Sassari. No, non è possibile questo, non lo accetto assolutamente. Vai Claudio. Ogni paese, ogni città c'ha il suo comune, devono buttarla nel comune di residenza, appunto. Quello che ha detto Gianfranco è giusto. Appunto è quello che ti sto dicendo, ma se tu dal paese ne porti la Mondezza a Sassari, qui si accumula di più quintali di Mondezza, e più ce n'è, e più viene poi distribuita la parcella fra tutti i cittadini appartenenti a quel comune. Ecco cosa volevo dire. Vai Claudio. Ma sì, ma infatti è un discorso che non riesco a capire. L'appartenenza, Gianni, è del comune. Se tu sei il comune di residenza, di appartenenza, io la Mondezza la posso buttare dove cavolo mi piace. Non ho detto che la devo buttare per forza nel mio cassonetto. A chi cosa avrei fritto? Carbonati. I cassonetti sono lì. Se tu ho la Mondezza in macchina, non me la sono dimenticata, trovo un cassonetto dove chiaramente devo buttarla, mi fermo e la butto. Ma la nettezza urbana di competenza, questo invece se ne è sceso la macchina, c'aveva 3 bidoni di tinta con carraggio, non l'ha buttata dentro il cassonetto, li ha messi lì, bidoni e tutto, lo avvicina alla plastica e se ne è andato, capito? Quello è anche un imbecille, perché non sa che in quel caso è proprio illegale, quindi credo che la contravvenzione possa arrivare anche a 5.000 euro, quindi deve stare molto molto molto attento, perché adesso è andata bene, ma se ce n'è un altro lì nel terrazzino di sotto che aveva il telefonino, una telecamera, e lo riprendevano, erano veramente, come si dice, uccelli per gli abiti, una cosa del genere, capito? Poi si mettono a piangere, ma non lo sapevo, ma così, ma colà. Tra l'altro tenete presente che c'è sempre la disciplina dell'orario, non è tanto buttare la Mondezza qua o là, bisogna buttarla a quegli orari che di norma nel pomeriggio, dopo le 4 credo, dopo le 5. No, è dopo l'una. No, Gianni, entro le 18, ragione Gianfranco. Entro le 18, io li vedo qua, tutti i vecchietti scendono, fanno, sono sempre prima di 6. Dopo le 6 qualcuno scende, ma 6:30, 7:15, però sino a quell'ora lì, sicuramente sino a quell'ora lì, capito? E poi la mattina non si può buttare, io la butto presto prima che passa il camion a portare via, però non si può buttare. Va bene, comunque gli incendi ci sono da tutte le parti, i maleducati sono da tutte le parti e quindi non è che possiamo fare tutto il buon fascio, c'è gente che fa le cose per bene, ma ci sono quelli che fanno le cose perché secondo loro le spetta, capito? Gli è dovuto, vai giù. Infatti, per non parlare poi di certi negozi che buttano cartone, buttano di tutto, così abbandonano e poi si ritrovano anche fregati, perché anche i documenti magari anche strappati, però la polizia dal mucchio della Mondezza risale sempre a chi ha buttato certi rifiuti, per cui devono veramente stare attenti, non è uno scherzo. Io lo so perché lo so, vabbè, non ti spiego il motivo perché lo so, ma lo so per certo, per dire, no, perché non va bene assolutamente. Io a queste persone, guarda, anzi sono del parere che se un libero cittadino vedesse qualcuno che butta la Mondezza così in maniera avventurosa, dovrebbe possibilmente telefonare, magari fargli una fotografia col telefonino e telefonare alle forze dell'ordine, ai vigili urbani ad esempio, eccetera eccetera, in modo per fargli passare il vizio di fare certe cose, perché non è possibile che una persona così debba essere così tanto incivile. Non mi venga a dire che non lo sapevo, perché non è vero, sapere lo sanno, solo che non vogliono essere corretti, ecco qual è il discorso. Avanti Gianni. Ehi, comunque sono andato a vedere adesso e ho ragione io, è dalle 13 alle 24 per buttare la mondetta. Dalle 13 alle 24. Confermo. Sì, anche qua da me, cioè da me a Sassa, di fronte alla mia bottega, dai, a Becchis Bottega, ci sono i cassoni e c'è scritto l'orario, dalle 13 alle 24, è vero, perché durante la notte possono passare subito, dopo le 24 passano a ritirare, che poi possono essere anche le 2, le 3, le 4 del mattino. Poi non parliamo anche di quello, perché ci sono anche delle persone poco serie, anche fra quei lavoratori che passano a ritirare la mondezza la notte, ad esempio le bottiglie di vetro, tanto per fare un esempio, tu non le puoi ritirare alle 3 del mattino quando la gente sta dormendo, perché nel quartiere o nella strada dove passi fai un fracasso del genere e svegli tutti indistintamente. Quello è una raccolta che si deve fare magari dopo le 7 la mattina, dopo le 8 anche, in modo da non disturbare la gente, invece lo fanno apposta. Io sono convinto che ci sono certi operatori ecologici che lo fanno apposta proprio per disturbare la gente, e questo non me lo studia nessuno della stessa, perché ci sono quelle persone che passano a seconda dello fascino, che passano alle 3 di notte, oppure ci sono quelle persone che passano dalle 7 in poi la mattina, così va bene, ma alle 3 di notte non va certo bene, perché fa un fracasso del diavolo. Avanti Claudio. Io addirittura ho fatto anche, stiamo parlando di cambiando discorso, ma io ho fatto anche una segnalazione alla circoscrizione, perché qua spazzini non se ne vedono, qua se ne vede uno una volta alla settimana, in marciapiedi non si può camminare, i rami dei cosi, di quei, come si chiamano, praticamente sono tutti sul marciapiede. Senza parlare degli aghi del pino e quant'altro, mondezza di tutti i generi, spazzatura proprio, buste, carta, di tutto c'è nei marciapiedi. E non ci vede mai nessuno, mai. Quindi a un certo punto anche il comune, che si vanta tanto, a rioni sono belli, belli che puliti, e certi rioni fanno schifo, perché il mio rione, soprattutto il rione Carbonazzi, per dirlo chiaro e tondo, fa schifo veramente. Le strade fanno schifo, i marciapiedi sono impraticabili. Perché loro mettono in risalto le vie che danno all'occhio, le vie periferiche vanno in dimenticatoio, perché qua vicino a casa c'è un marciapiede che ha ceduto, sono caduti in tanti, addirittura uno l'hanno portato con l'ambulanza perché ha sbattuto la faccia a terra e si è rotto l'arcata sopraccigliare, c'è un bel taglio. E abbiamo fatto la domanda in comune, dimostrante al sindaco, l'ha fatta il capo condominio, l'abbiamo fatta lui personalmente, beh, sempre così è, da una parte c'è un fosso che se tu ci metti il piede ci cadi malamente, dall'altra c'è questo marciapiede che si è formato un vuoto sotto e risulta in discesa, se piove appena cadi, sono caduto anche io dopo essere stato operato e meno male sono caduto con l'altro ginocchio. Ma ti sembra una cosa giusta a te? Io le tasse le pago lo stesso come gli altri rioni, cosa c'entra? Perché è proprio il rione che è rimpetto a casa mia, cioè il marciapiede rimpetto a casa mia, il nostro marciapiede dove c'è la recinzione del nostro cancello eccetera, quello il martedì e il venerdì lo puliscono, lo rompono le pulizie, lo spazzano e con la pompa, che c'è una manichetta da 50 metri, ok, lavano tutto il marciapiede, capito? Perché ci passo io la roba mia, ma gli altri marciapiedi devono essere puliti come quello, non devo andare a pulirli io, ci deve essere un netto urbino che spazza le strade tutte le mattine, come in tutti i rioni e in tutte le circostanze, capito? Cosa vuol dire? Perché un rione di periferia tu non lo devi pulire, fa veramente schifo. E adesso, prima delle elezioni, il primo che si presenta a chiedere voti, perché ogni anno succede la stessa cosa, tu vedrai la gente cosa le dice, vedrai che cosa succede. Vai Gianfranco. No, da noi, ripeto, c'è la differenziata vera e propria, cioè, scusa, non la differenziata, è un'altra cosa, c'è il porta a porta, cioè le metti fuori dal cancello e in quei giorni sai che passano, quindi la puoi mettere anche di notte volendo, essendo agro, non ci sono problemi. Però la mattina passano, a volte passano presto, a volte passano un po' più tardi, dipende dal giro che fanno, e caricano, quindi un giorno passano per il vetro, l'altro giorno passano per la plastica. Ci devi mettere il sacchetto in bella vista e lo portiamo via. Tutto qua, pare che funzioni abbastanza bene. E ogni tanto controllano anche il contenuto, lo devo dire. Ma comunque loro non è che passa l'ora che vogliono loro, sono mandati a quell'orario lì, non è che si organizzano loro il lavoro viene organizzato da una persona che si occupa dei vizi. Allora, vabbè, c'era anche un amico mio che faceva questo tipo di lavoro, che organizzava i mezzi, eccetera, eccetera, dove dovevano andare, quello che magari doveva andare fuori a buttare un materiale particolare, tutte queste cose qua. Loro fanno le zone, per dire, in quella zona lì devi andare a quell'ora lì, poi loro devono finire a una certa ora, capito? Se lavorano dalle 2 di mattina, devono fare quelle ore lì e basta, non è che possono passare il tardi. Da dire questo, che il comune mette a disposizione un servizio che quando ha qualcosa di ingombrante da buttare da via, non è detto che devi per forza portarlo tu, basta telefonare, loro ti dicono mettilo davanti alla porta e mettici un numero di telefono sopra in modo che ti possono rintracciare e poi noi passiamo a ritirarlo. Tant'è vero, qui la settimana scorsa hanno messo una lavatrice e un ventilatore per strada, qua nella strada dove abito io, praticamente a 5 metri da dove abito io, e c'era un bel cartello appiccicato con un numero di telefono, probabilmente il telefono dell'individuo che ha buttato questa, ma quella è una cosa che permette il comune, perché è un servizio che offre ai cittadini, per cui non è il caso nemmeno di abbandonare certi rifiuti. E come si fa a buttare un frigorifero, oppure come hanno fatto ad esempio tempo fa in via al Duomo, che hanno riempito la strada di immondezza di ogni genere, oppure in via Nunzio Cesare, che c'era tutto un mobile completo di un appartamento, in fondo in via Nunzio Cesare c'era. Quelli poi, quando li hanno individuati, gli hanno fatto una multa di 500 euro e allo stesso tempo denunciati penalmente. Per cui la gente non gliene frega niente e non mi vengono a dire che queste cose non le sanno, perché le sanno, altro che se le sanno, ma cosa fanno? Lo fanno apposta? Io dico che lo fanno anche apposta, gente incosciente proprio. Avanti Claudio, ma Marco c'è ancora? Non lo so, forse sta pranzando. Sì, Gianni, c'è un itinerario, a me mi ha detto Mauro, lui ad esempio prima, perché lui guida il camion grande, faceva i cassoni e andava a Villa Cidra a scaricare, alla discarica. Adesso sta facendo i cassonetti normali, però da solo, quello automatico che li prende, eccetera. Ci siamo visti da poco qua, capito? Però ti ripeto, c'è un ordine di servizio dove quello deve fare quello, quello deve fare quello, quello deve fare quell'altro, non è che a volte ti cambiano, magari si invertono, soprattutto gli autisti, capito? Però i neturbini c'hanno le loro zone. Guarda, io conosco, è così chiamato Altobelli, lo chiamano, grande giocatore di pallone, è interista purtroppo, però bravissimo. C'è la zona di via Napoli, ok, via Napoli, via Rizzeddu, via quella via che taglia via Rizzeddu, che c'è il nome di un prete, non mi ricordo, c'è quella zona lì. Ma voi andate a vedere quella zona, se trovate un pezzo di carta e una cicca di sigaretta per terra, è una cosa allucinante. Un uomo grande, penso che vada in pensione quest'anno perché mi pare che abbia intorno ai 64-65 anni, ma è di una pulizia, di un ordine. Cioè, guarda, ha iniziato, mi pare che sia uno dei primi nei turbini, cioè, si è iniziato nella cooperativa, poi è entrata la SLIA, quindi c'è un sacco di anni, ma c'ha veramente una voglia di tenere le strade pulite, fa bene il suo lavoro e quelle sono persone da apprezzare. Infatti lui ha detto, ma perché non viene a zona? No, io sto Guvenoghi, vicino a casa, sto bene, mi hanno messo qua, l'azienda è contenta, e chi è che non è contento di te? Sei veramente un grandissimo lavoratore, perché fa le cose fatte bene. Qua in questa zona io, mi pare, in un mese ho visto una volta nel turbino, passa con questo motocarro e basta, e tira dritto. Io non vorrei infierire, perché sapete bene che Marino fa parte di quella categoria, mi dispiace dirlo, ma veramente ce ne sono batti la viacca, cioè gente che è pagata per non fare niente, questo lo devo dire. Sì, beh certo, ci sono le persone che lavorano con coscienza e le persone invece che sono capaci di vendersi la madre, le figlie e i parenti, tutti, prima di ottenere il posto. Una volta che hanno ottenuto il posto non hanno voglia di fare niente. No, non è così che deve funzionare, no, assolutamente. Purtroppo ci sono queste persone qua che non hanno voglia di fare niente. Prima fanno fuoco e fiamme quando devono ottenere il posto, dopo che l'hanno ottenuto, basta, si dimenticano di tutto. Pensano solamente a aspettare il giorno dello stipendio. E così non va bene, assolutamente. Comunque c'è troppa gente incosciente. Io mi ricordo quando c'erano i cassoni grandi, quei cassoni tipo camion, no? La gente, adesso ce ne sta di roba dentro quei cassoni lì, la gente metteva per terra, ma non è possibile, ma cosa ti costa buttarlo dentro il cassone? No, metteva la mondezza per terra e non mi vengano a dire perché il comune non le ritirava, già le ritirava i cassoni, altro che se le ritirava. Io invece che facevo l'artigiano dovevo pagare per buttare il sacco della mondezza, della serratura, cose dell'altro mondo. E purtroppo è così, cosa vuoi che ti dica? Ci sono delle ingiustizie madornali, ci sono in questa vita così, ma comunque, avanti qua. Mi sto allontanando, ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao a tutti. Ciao Gianfranco, sentiamo dopo, se coincide, va bene. Giulio, ricordami l'orario, perché io ho l'orologio alle spalle e a volte non mi ricordo. 7:30 avvisami, se ti viene bene. Poi se sentite anomalie, visto che siamo, che ho questa radio finita finalmente in prova. Ti piace già la modulazione? Sì, è bella forte. Volevo dire a Giulio che praticamente non è il numero di telefono che si applica lavatrice eccetera eccetera, è un numero che ti danno loro di serie che tu devi mettere per ritirarti la roba, te lo danno loro il numero. Sì, già un numero c'era, io non so a cosa si riferisse quel numero lì, però ho pensato, ma probabilmente è il numero dell'individuo che ha abbandonato la lavatrice o qualsiasi altro oggetto, capito? Io ho pensato quello, poi a cosa si riferisce non lo so di preciso. Per cui ciao Gianfranco, intanto se sei ancora all'ascolto. Purtroppo è così, no, ma comunque la gente dovrebbe essere un pochino più educata e cercare di vivere in maniera più civile, che così ne guadagneremo tutti. Mentre invece se la gente si vive incivilmente, ma sotto tutti i punti di vista, non solamente sul fatto della mondezza o sul fatto del coronavirus eccetera eccetera, ma in tutto e per tutto, anche dell'educazione, della gentilezza, della circolazione stradale, ma in tutto e per tutto vivremmo meglio se tutti fossimo stati educati come si deve e avere un comportamento della persona educata. Invece ognuno fa quello che crede e ce ne freghiamo degli altri. Non va bene così, non va bene. Avanti Claudio. Grappa. Sì, infatti ha ragione Gianni, perché io ho telefonato dallo scaldabagno, mi si era bucato lo scaldabagno l'anno scorso, volevo portarlo il martedì, ma per non tenerlo in mezzo ai piedi, perché mi era successo già, mi pare, di mercoledì o di giovedì, per non tenerlo in mezzo ai piedi, Allora ho chiamato all'autoparco e mi hanno detto lo metta fuori domani mattina alle 6, passa il camioncino, e mi hanno dato un numero, me lo ricordo come oggi, 1706, capito? 1706, mi ha detto faccia un foglietto, gli attacchi col nastro il numero e non si preoccupi. Ho detto ma non è che mi vedo, no, lui non si preoccupi. Assolutamente, lo metta vicino al cassonetto, quello verde, ok, senza intracciare marciapiede eccetera, e lo lasci lì. Domani mattina bello in vista, mi ha detto, e se no, se c'è spazio lo metta vicino al cancelletto, ma è su marciapiede, allora lo metta vicino ai cassonetti, con numero ben in vista, in modo che domani mattina alle 6 passa il camioncino e lo portano via. Infatti guarda, ho fatto proprio, mi sono alzato presto, alle 6 non si è visto nessuno, verso le 6 e un quarto, 6 e 20 è passato questo camioncino bianco con la scritta Gesenu, non Gesenu, Ambiente Italia, e l'ha portato via, un Ducato cassonato, era insomma un camioncino, e l'ha portato via, capito? Quindi è così, ti danno un numero loro e non hai nessun problema, chiunque ti veda c'è il numero, avvisato, domani mattina passano a prenderlo, capito? Poi in ogni caso dice le segnalazioni arrivano a noi, quindi noi controlliamo se in quella zona c'è una chiamata, il suo numero è registrato, un registro, il numero di telefono, voglio nome e cognome, via e indirizzo, e poi loro ti danno un numero di serie da applicare al pezzo che devi buttare, capito Giulio? Vai già. Sì, è così. E se lo fa, se vai vicino a casa, via Bonolba, prova a passare di domenica via Bonolba, cosa c'è di Mondetta? Ma di tutto e di più, biciclette, di tutto buttano, di tutto e di più, senza numero, senza nulla, di tutto c'è. A volte buttano anche roba buona, magari, che funziona, per dire, c'era una macchinetta di quella dei bambini, ce l'è presente, di quelle, che dei carabinieri, quelle che usano i bambini col pedale elettrica. Ho premuto il pulsante e funzionava, cioè andava, proprio l'hanno buttata così, non capisco. La davano a qualche bambino povero, cavolo, ne avrebbe usufruito. Io facciano i cosi, come si chiama, gli spazzini, come si chiamano, gli zingari, entrano il gabbo drento, cercano tutto, se poi c'è roba per terra da portare via se la portano via, capito? Quindi se l'avessero vista gli zingari, stai tranquillo che non era lì quella macchina, vai Giulio. Infatti, se avete considerato che gli zingari soprattutto vanno in quei cassoni gialli dove si mettono gli abiti usati e poi non fanno altro che togliere fuori, ce n'era uno l'altro giorno con mezzo busto dentro a cosa, stavo per sollevarlo per le gambe e farlo cadere dentro a questo un ragazzotto c'era, cercando abiti, però cosa fanno? Prendono e buttano per terra, non è che poi che si hanno scelto quello che si devono prendere, che si vogliono prendere, non è che poi quella roba che hanno messo per terra la rimettono dentro, no, abbandonano tutto così e se ne vanno. Sono una massa di disgraziate queste persone, è veramente uno schifo, capito? È una parte dell'umanità quella proprio da eliminare, secondo me. Tu mi dirai, ma se è così spiazzato, ma quella è gente incivile che non sa vivere nella maniera più assoluta, oltre al fatto che non fanno altro grazie che aprire l'appartamento delle case, prova a fidarti poco e poi verrai, soprattutto in questi giorni di ferie, le persone che vanno in ferie, e poi verrai che razza di situazione succede. Qui ogni tanto si sente un appartamento aperto, gli zingari che sono entrati e così via. Addirittura nella via dove sono io, a casa di un carabiniere che abita anche il carabiniere, a 200 metri da dove abito io, sono entrate roba di due o tre volte, scavalcando la ringhiera del muro di cinta, e poi sono entrati nell'appartamento, sono entrati e gliel'hanno svuotato. Cose dell'altro mondo, guarda. Non si può vivere con certe persone così, non è possibile, guarda. Vai qua. Ma lì è così, caro Giulio, lì è così, cioè questa gente non ha problemi, cioè non gliene frega niente, no, vivono di quello, ma io li vedo tutti i santi giorni qua, passano con un passeggino e caricano tutto dentro, quello che trovano che le interessa, roba di qualsiasi tipo, capito? L'importante è che sia roba che a loro interessa. E cosa fai? Mica di bobunia, farrati e quello e l'altro. Io un giorno gli ho detto, quando togliete la roba dal cassonetto, rimettetela dentro, io non farei niente, controllare e basta. No, tu stai sporcando per terra, gli ho detto, se ti serve qualcosa prenditela, a me non interessa, però non buttare la roba per terra, rimettila dentro il cassonetto. E non capisci, ma bei dalamari, cioè arrivi poi ti comprometti per che cosa, ma lasci in affutti, ma che si arrangino le forze dell'ordine, a me non mi interessa. Vai Gianni. Allora sai cosa abbiamo fatto con un'amica mia, via Pirandello, lì prima della rotatoria, c'era la fila delle macchine, era ferma, praticamente si è avvicinato uno zingaro e le ha chiesto subito e le ha detto che non ne aveva, si è aperto, sai cosa ha fatto? Ha preso la sputata e se l'è scappata. Miserabili, per carità. Io ero col cane, non si era mai avvicinato perché ci battevi lì, poi nel sacco era un razzo, nel sacco. Però dico, bisogna stare attenti, no, non bisogna mai fidarsi di queste persone, perché sono persone che non hanno niente da perdere, e ti posso garantire che se tu chiami i carabinieri non li fanno niente, assolutamente non le fanno niente Gianni, quindi io l'ho detto così per correttezza, per farle capire che non si butta niente per terra, era tutto bello pulito. Poi tra l'altro una volta alla settimana passa il camion, pulisce dove ci sono i cassonetti, quello lo fanno e li lava. Quindi lì che è entrato dentro, una lampada, tutta la mondezza vola e si è preso quello che le serviva. Rimettila dentro la mondezza se non ti serve. Sono degli incivili. Ma avete visto cosa c'è in Alta Italia, in campi di Rom, ma anche in Sardegna mi pare, nella zona di Cagliari, cosa sta succedendo? Sta diventando come la terra dei fuochi, una cosa pazzesca. Pazzesca da vedere, cioè bruciano gomme, bruciano macchine intere, bruciano mondezza, rifiuti proprio domestici, un fumo nero, uno schifo, un odore, cioè una cosa pazzesca. Vai giù. Sì, ma l'hanno fatto anche da poco qui gli zingari che ci sono lì a Piandanna, in quel campo lì di Piandanna, per carità. Ehi, pensa che Marino mi ha detto, dice, tu non hai idea di quante volte l'abbiamo pulito quel campo lì, e dopo un po' di tempo è peggio di prima, e anche da poco, ma io parlo di quanti giorni saranno, 20 giorni, 25 giorni, non di più, e c'era l'incendio, sono dovuti intervenire i pompieri, perché gli zingari hanno messo fuoco lì, in quel campo lì, per cui si può immaginare lì, quando mettono fuoco a quelle cose lì, sto con la mondezza nel vedi di fumo tipo diossina eccetera che c'è nell'aria, non è possibile ragazzi. Però io sono meravigliato come mai permettono, l'Italia permette a certa gente di vivere in quel mondo, dice ma sono liberi, possono fare quello che vogliono. No, non è così, no, uno deve stare alle regole, non può vivere così, perché tu stai offendendo l'intera umanità, stai offendendo quando ti comporti in questa maniera, non è possibile, purtroppo lo fanno, cosa vuoi fare, ma comunque fai già. Se no c'è... ho toccato la macchina, questi zingari, non ha cavato bene, è uno schifo, è veramente uno schifo, sono una categoria di persone, se persone li vogliamo chiamare, perché in effetti sono persone, ma sono peggio della mondezza che loro producono stesso, sono peggio di quella della mondezza lì, dovrebbero bruciare loro insieme alla mondezza che bruciano. Vai qua. Si conferma, però ti ripeto, in certe circostanze il comune dovrebbe stare un po' più attento, soprattutto in questi casi, perché può succedere veramente come la terra dei fuochi. Guarda, ho visto un filmato che hanno fatto vedere a Videolina da poco, nella provincia di Cagliari, dove c'è un campo Roma che... ci sono catastro di mondezza anche 3-4 metri alte, capito? 3-4 metri alte, dove loro una volta che è così alta prendono e mettono fuoco. prende e mettono a fuoco. Un fumo nero, una puzza, hanno intervistato la gente, dice abbiamo le scatole piene, perché quando c'è il maestrale ci sono delle case vicino, ci sono dei palazzi, capito? Il fumo arriva tutto dentro casa, non si può respirare, una cosa, un fumo acre, una cosa pazzesca, puzzolente, cioè non va bene. Quindi sono intervenuti i vigili urbani, la polizia municipale, diciamo, con la forestale, le guardie ambientali, i carabinieri appunto ambientali, non so poi che cosa facciano, sembra che vogliano sgombrare perché è veramente uno schifo. E che Piandanna c'è scappato anche il morto, si era bruciata la baracca, quindi cioè, alla fine poi succedono delle tragedie che non devono succedere, basta stare attenti. Invece Alice non era fotti nuda perché non hanno niente da perdere, sono zingari nel vero senso della parola, capito? Quando è zingaro è zingaro, cioè basta vedere come sono vestiti, come sono sporchi, come non gliene frega niente, vivono così, nella sporcizia, mentre i topi, cosa c'era di topi in questo filmato che hanno fatto vedere? Cioè convivono con i topi, che schifo! Comunque quelli di Cagliari si suppone che ci fosse un traffico di rifiuti, che loro magari li davano un tanto e se li facevano scaricare lì e poi li bruciavano, capito? Che ci sia traffico di rifiuti da fuori e rifiuti anche speciali, di quelli che non si possono buttare così. E insomma, a Piandanna poi io mi ricordo quando c'era ricoverata mia sorella via San Nicola, per due o tre volte ho visto i vigili del fuoco intervenire incendi e poi bruciano gomma, fumo nero, nuvoloni di fumo nero, capito? Immaginate tu, se uno può vivere con questo incubo sapendo che può prendere qualche malattia, perché questi deficienti bruciano di tutto e di più, la gomma, bruciano macchine intere, prima le smontano e poi le bruciano, perché una volta bruciate poi se le vendono, capito? Hanno fatto vedere anche uno organizzato con le bombole d'ossigeno, il cannello che tagliava macchine, tagliava pezzi di ferro, fanno i camioncini, riempiono i camioncini, poi vanno e se lo vendono. Sì, ho sentito anche quello che poi ci sia un traffico di rifiuti speciali. È lì chi deve vigilare, noi cittadini? Allora, oramai ci sono le tecnologie, controlla dall'alto cosa sta succedendo in questo campo anomali, perché è veramente una cosa impressionante da vedere, minchia, proprio da vedere, una cosa impressionante, sembrava proprio come la terra dei fuochi, proprio a quei livelli, Giulio. Per carità, quando sento Salvini che dice nei campi nomadi, nei campi rom ci faccio passare il carro armato, guarda, io sarei proprio d'accordo che facesse così, se ci fosse quella possibilità di fare. Chiaramente lui non è al potere, non è certe cose, non le potrà mai fare, anche perché il governo italiano a queste cose sembra che le piacciono, più disordine c'è più le piace, a quanto sembra. È una vergogna, guarda, siamo veramente messi male, ma male, in tutti i sensi, in tutti i settori e in tutti i particolari. Non è possibile, per carità, Iulia, ti prendi già. Purtroppo, quando bruciano la gomma del coso per fare il rame, quando bruciano le guaine dei fili elettrici, roba del genere, non fanno fumo nero lo stesso, poi per ricavarne il rame, no, che c'è dentro. E quello ce lo vendono, non da mesese né du. Ma è come loro, cazzo, un bagaglio è un bel, già lo so. C'era un periodo che lì sulla BDV c'era la fila con i camioncini, macchine, camioncini, di tutto e di più, zingari, vennero a gogo, tutti in fila lì aspettando che aprisse la mattina quando andavamo a lavorare. Erano tutti in fila lì, sin arrivare fuori, c'è lo spiato, anche fuori ce n'è. Sì, da Busmino, ehi. Certo che sì, perché io una volta al mese avevo proprio quell'incarico negli impianti, quando facevano i lavori, perché lavori ne abbiamo fatto tanti, cancelli vecchi, tagliati e messi nuovi, scorrevoli, ad ante normali, da aprire noi, eccetera, ringhiere, di tutto. Noi ogni mese, ma questo era scontato, facevamo un calcolo, la dire lei diceva, perfetto, se io devo spostare a Claudio che deve andare, perché chiaramente avevo l'incarico per ritirare l'assegno, la fattura, tutto, deve fare il formulario perché ci vuole un formulario per il trasporto. Quindi a me Claudio mi costa tutto perché tutta la mattina sente dai suoi impianti, quindi non fa il suo lavoro per fare quello, è un costo. Poi c'è il camioncino che Claudio deve seguire, aziendale, ci vuole il gasolio, ci vuole un altro operaio per guidarlo, il camioncino con la gru, con la gruetta, con l'agnetto. Quindi è tutto un costo. L'azienda diceva, arrangiati tu, hai carta bianca. Ogni santo giorno, in settimana, passava sempre questo signore anziano che aveva un camioncino, un Ford Transit cassonato, e mi diceva sempre a me,